vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 10 aprile, il sole in regione è sorto alle 6.31 e tramonterà alle 19.47. Sabato ci sarà luna piena e siete all'ascolto di Vita nei Campi. Buongiorno da Armando Mucchino e Rita Micoli. Tanti sono i prodotti caratteristici e tipici dell'orticoltura del Friuli Venezia Giulia che, se sapientemente valorizzati, potrebbero dare lustro a questo settore. È il tema dell'approfondimento di oggi di Vita nei Campi con Costantino Cattivello, vecchia conoscenza della trasmissione. A seguire, per i temi della crisi che attanaglia anche il settore agricolo, ci occupiamo del prezzo del latte, paradigmatico della situazione generale. Per la rubrica del bio, rimanendo in tema di zootecnia, alcune considerazioni per salvare l'allevamento senza compromettere gli equilibri del pianeta. Per lo spazio che dedichiamo al vino, un interessante viaggio nella sua ricchezza e complessità microbiologica, per passare poi nella rubrica dell'orto a parlare di cipolle. Questa è la stagione delle erbe di primavera e attualissima, dunque a seguire una ricetta di orzo e ortiche. Andamento dei mercati agricoli, previsioni del tempo per la settimana entrante e il proverbio friulano della settimana chiudono la puntata. Dopo lo sguardo d'insieme sul settore dell'orticoltura che ci ha fatto la scorsa puntata, oggi Costantino Cattivello comincia ad entrarsi nel settore parlando delle produzioni tipiche che si hanno qui in Friuli Venezia Giulia. Va subito detto che queste produzioni particolari sono il frutto della nostra storia, della nostra posizione geografica e dell'incontro con la cultura germanica e slava. Partiamo con il sedano rapa. In regione si coltiva una selezione del cosiddetto gigante di Praga, città che un tempo faceva parte dell'impero asburgico come noi. Un ortaggio sia da radice che da foglia, molto rustico e con caratteristiche organolettiche decisamente migliori dei tipi olandesi che trovate negli scaffali della grande distribuzione. Aglio di Resia, di origine incerta, ma alcuni ipotizzano che provenga dall'area caucasica. A differenza del comune aglio, si differenzia in primo luogo dal punto di vista botanico, tanto che gli anglosassoni chiamano questa varietà botanica serpent garlic. Ma al di là degli aspetti scientifici, si caratterizza per un gusto delicato ed una elevata digeribilità. Abbiamo poi il radicchio da grumolo forzato, conosciuto come rosa di Gorizia o rosa dell'Isonzo o canarino anche. Ortaggio coltivato e selezionato sia nell'area slovena che isontina. Un radicchio con un grumolo di peso contenuto che si caratterizza per spiccate proprietà organolettiche, una forma caratteristica, un colore rosso acceso o giallo, da cui l'appellativo canarino, ed una elevata valenza salutistica grazie al bassissimo contenuto in nitrati nella foglia. L'hydricul poc, radicchio da grumolo non forzato, tipico della media pianura friulana. Si presenta con fogliame verde o rosso e con il caratteristico POC, la porzione sommitale della radice, che ne aumenta la durata post raccolta. Le caratteristiche organolettiche poi salutistiche sono superiori rispetto a molti radicchi da cespo veneti, grazie al basso contenuto in nitrati nelle parti edibili. Adesso parliamo della cipolla, rosa della Valcosa o rossa di Cavasso, tipica selezione della pedemontana pordenonese. È una cipolla che si caratterizza per una conservabilità media, una elevata dolcezza e serbevolezza che ne fanno un prodotto superiore dal punto di vista gastronomico. Sclopit, noto anche come bubolini o strigoli, rappresenta una sorta di simbolo di una moltitudine di erbe e germogli che un tempo entravano nella composizione dell'itum. Anche al giorno d'oggi deriva in larga parte dalla raccolta di materiale spontaneo, anche se non mancano alcuni esempi di coltivazione e vendita sia attraverso filiere corte che nel canale della grande distribuzione organizzata. E infine non poteva mancare un accenno a alcuni prodotti tipici dell'area triestina, come il cren, lo zucchino verde chiaro o bianco e il peperone citrino, tre specie tipiche di questa orticoltura che nel caso del cren ci parla degli intensi influssi della cucina mitteleuropea, Nel caso del peperone citrino, una varietà particolarmente digeribile, ci parla delle influenze balcaniche, ed infine lo zucchino più diffuso, che è il tipo libanese, dalle chiare origini. In questa crisi non solo finanziaria che si sta abbattendo sul mondo dell'agricoltura, il prezzo del latte è un po' il paradigma della situazione. Sta crescendo, ma crescendo molto poco. Si parla di un 10% che potrebbe ulteriormente aumentare. Però i prezzi, i costi in stalla, secondo le ultime rilevazioni, sono cresciuti per l'allevatore del 50%. Che fare? Ne parliamo con Graziano Zanello, allevatore, produttore caseario e componente della commissione lattiero casearia della Camera di Commercio. Innanzitutto partiamo dalle ultime quotazioni. Ieri abbiamo quotato il latte base a riferimento marzo 42, quindi abbiamo fatto un balzo dai 38 ai 42, significa un 10%. Le quotazioni che già si vedono presumono un aumento ancora di un altro 10% per il mese di aprile, che comunque deve ancora avvenire. Benché vada, quindi arriviamo a un 20%. Per arrivare al 50% della crescita dei costi, che fare? Per arrivare al 50 bisognerebbe che qualcuno mettesse mano al portafoglio e prima di tutto alla buona coscienza e andando ad aiutare gli allevatori, altrimenti non riescono a sostenere i costi della produzione. È vero che qualcuno sta già pensando di eliminare le bovine dalla stalla? Purtroppo sì. Noi le vorremmo mandare queste vacche in cassa integrazione. La cassa integrazione per le vacche non esiste e quindi andranno al macello. Non c'è altra scelta. La morte della zootecnia? Siamo sempre più vicini. E per quanto riguarda gli aiuti, c'è qualcuno, pubblico o privato? Perché bisogna ricordare che il latte lo comprano e lo quotano e lo pagano i privati, disposto a darvi una mano? Non se ne vedono tanti, perché anche loro sono preoccupati poi dello scaricare i costi al consumo. Quindi ci dicono: attenzione, noi possiamo riconoscervi un 10% adesso, un altro 10% più avanti, ma non sappiamo come il consumatore reagirà andando all'acquisto. Quindi tengono le corde ancora tirate, le corde delle borse. Nella rubrica del Bio Oggi, Cristina Micheloni, occupandosi di zootecnia, ragiona su come possiamo continuare a mangiare carne, uova e formaggi senza mangiarci il pianeta. Nell'emergenza della situazione in cui si trovano gli allevatori nostrani, è ragionevole pensare a misure di sostegno al reddito, di ricerca di materie prime per mangimi meno legate ai mercati e ai prezzi globali. Detto in altro modo, facciamo tutto quello che si può per scongiurare la chiusura di altre stalle friulane. Però nulla varrebbe salvarle oggi per chiuderle domani o per lasciarle aperte su un pianeta in fiamme. È più che mai il momento, dunque, per ragionare su una zootecnia diversa. Il recentissimo report dell'IPES Food, il panel internazionale di esperti indipendenti, che da quasi 10 anni dà forma ai dibattiti più avanzati sulla scena dell'agroalimentare, ci offre non pochi utili spunti. Lascio alla pagina Facebook della trasmissione il link al report completo. Spunto 1. Non si può risolvere davvero il problema guardando a un fattore alla volta. C'è la questione delle emissioni climalteranti, ma anche la perdita di fertilità dei suoli, il declino della biodiversità, la competizione sull'acqua, il costo dell'energia, l'antibiotico resistenza e le patologie che ci arrivano selvatici attraverso quelli allevati, ma anche i problemi di alimentazione di miliardi di persone, nonché la loro salute, guardando soprattutto le popolazioni che stanno velocemente invecchiando. Tutto si traduce in costi. Non ha senso tentare di risolvere goffamente uno solo dei problemi, di solito il più urgente o quello che si percepisce come più urgente. O si cerca una via che faccia fronte a tutto ed abbia un orizzonte lungo, o perdiamo tempo. Ora ci concentriamo sull'emergenza dettata dal costo del mais piuttosto che dell'energia, ma risolto quello, prepariamoci alle successive crisi. Spunto 2. I prodotti alimentari non possono costare troppo poco, perché il conto lo salda qualcuno o qualcosa d'altro: gli agricoltori sottopagati, l'ambiente, il benessere animale, il clima. Dove invece si può fare economia è nella scelta e combinazione degli alimenti. Esempio: se aumento la percentuale di vegetali nella dieta, posso permettermi di mangiare anche della carne di buona qualità e prezzo più elevato. Se compro la verdura di stagione, bio e del paese accanto al mio, tutto il valore rimane nella comunità e non si sperpera in packaging, frigoriferi e camion. Spunto 3. A livello globale la produzione zootecnica deve diminuire, non c'è storia, ma non significa che debba sparire, anzi. Come si fa quindi a far diventare più leggera la produzione zootecnica sul pianeta? Una cosa banale, più foraggere, più pascoli, ma non solo. Ritornando alla nostra regione, più che i 5.000 ettari di aree di interesse ecologico rimesse a coltura, forse dovremmo mettere a valore le decine di migliaia di ettari caduti in abbandono nell'area collinare, pedemontana e montana, dove le foraggere darebbero buone soddisfazioni senza chiedere granché in termini di concimi, acqua ed energia. Spunto 4. Usiamo tutta la conoscenza disponibile, soprattutto intrecciamo i saperi. Ben vengano anche gli strumenti digitali, ma appunto sono strumenti e senza una visione e una conoscenza ampia sono di poco aiuto. Il vino ha una complessità che manca ad altri alimenti fermentati. La diversità di specie microbiche presenti negli ambienti associati alla sua produzione è una delle principali ragioni di questa complessità che ci racconta oggi il professor Roberto Zironi. La presenza di diverse specie di lieviti, batteri e muffe sulla superficie degli acini d'uva svolge un ruolo importante nella vinificazione. L'ecologia microbica delle uve è ancora in gran parte sconosciuta, ma si stima che sulla superficie dei grappoli la popolazione microbica raggiunga valori di 1.000 a 100.000 cellule per grammo. Tra i microrganismi presenti sui grappoli, il principale lievito vinario, il Saccharomyces cerevisiae, è poco frequente. Questo solleva domande sulla sua provenienza nel garantire la fermentazione del mosto d'uva. Anche le pratiche agricole giocano un ruolo evidente. Ricerche recenti per valutare le differenze nella popolazione microbica delle uve provenienti da sistemi di coltivazione convenzionali biologici hanno dimostrato l'esistenza di una maggior biodiversità in caso di coltivazione biologica. Infine, i danni fisici provocati da uccelli, insetti e muffe condizionano la qualità e la quantità delle specie microbiche presenti. È ben noto che gli insetti influenzano il microbiota dell'uva mediante diversi meccanismi. In primo luogo, quando danneggiano gli acini, causano la fuoriuscita del succo, determinando un incremento della popolazione microbica. Inoltre, gli insetti, ed in particolare il moscerino della frutta, fungono da vettore di microrganismi, sia di lieviti che di batteri. L'endobiosi con le api indica come molte specie di lievito siano portate sulle uve da questi insetti. Infatti, studi recenti su api e calabroni rilevano la presenza di lieviti nella loro microbiota intestinale. Quindi api e calabroni hanno un ruolo attivo nel trasportare e mantenere la biodiversità fungina, svolgendo molteplici ruoli. In fase invernale, durante lo svernamento, mantengono e preservano i lieviti, favoriscono la creazione di un'ova di biodiversità, e nei mesi di agosto-settembre, in fase di maturazione dell'uva, l'inoculo sugli acini. La conversione del mosto d'uva in vino è un processo biochimico nel quale i lieviti trasformano gli zuccheri in etanolo e CO2. Sebbene il mosto costituisca un mezzo nutritivo relativamente completo, il basso valore di pH e l'alta concentrazione di zuccheri esercitano una forte pressione selettiva sui microrganismi ed in condizioni di anaerobiosi i lieviti trovano un ambiente favorevole e prendono il sopravvento. La forte proliferazione dei lieviti causa il progressivo esaurimento di molti nutrienti e l'aumento della concentrazione di etanolo che inibisce lo sviluppo di altri microrganismi quali funghi, batteri e lieviti più sensibili alle concentrazioni alcoliche raggiunte. I grappoli d'uva sono dunque il principale serbatoio naturale di lieviti autoctoni del vino, distribuiti spazialmente sugli acini e sui grappoli d'uva. Secondo la letteratura, sull'uva possono essere presenti 93 diverse specie di lieviti e 50 diverse specie di batteri. È una delle piccole regine dell'orto. Stiamo parlando della cipolla, facile da coltivare, ma bisogna seguire alcuni accorgimenti che oggi ci illustra Sara Bosco. È un ortaggio che inizia la sua stagione in questo periodo, però può essere presente sulle nostre tavole tutto l'anno. Appartiene alla famiglia delle liliacee come l'asparago e l'aglio. Si differenziano tra le varie varietà che sono presenti sul mercato per le colorazioni e le conformazioni del bulbo e per un diverso ciclo culturale, distinguendosi in primaverili e autunnali. È una pianta che resiste bene al freddo, non ama i ristagni idrici che ne vanno a causare le malattie e marciumi più comuni e non richiede grandi concimazioni. Può essere messa a dimora sotto forma di seme, di piantina o di bulbillo. In quest'ultimo caso ci permette di abbreviare i tempi in quanto ha un attecchimento più rapido. La cipolla non ama essere sottoposta al trapianto, perciò la soluzione migliore in assoluto risulterebbe essere la semina diretta in campo. La semina viene effettuata in file distanti circa 25-30 cm, con una distanza tra le piante di circa 20 cm, che varia però in funzione della tipologia che andremo ad effettuare, in quanto nel caso di cipollotto o di cipolle borettate la distanza tra le piante sarà inferiore. Una volta messa a dimora richiede una corretta gestione delle malerbe, in quanto, non essendo una pianta molto vigorosa, fa difficoltà a competere con queste per il nutrimento e lo spazio nel terreno. Una soluzione può anche essere l'impiego della pacciamatura. Inoltre è importante arieggiare il terreno almeno un paio di volte durante la coltivazione, in relazione però al tipo di terreno. Saranno maggiori in un terreno argilloso. Questa cultura non è adatta però alla coltivazione in vaso sul balcone, perché è poco redditizia in una superficie così confinata. La cipolla può essere raccolta in fase precoce, come nel caso del cipollotto, se ci interessano maggiormente le foglie, oppure al momento della maturazione completa. Questa fase viene raggiunta quando lo stelo inizia ad ingiallirsi e tende a piegarsi. Questo ortaggio non risulta essere molto laborioso da coltivare, ma se raccolto al momento giusto e posto in un luogo fresco e asciutto, può essere conservato per tutto l'anno. Ogni paese, ogni cultura ha il suo termine per l'andar per erbe. Questa è la stagione adatta e Roberto Zottar la arricchisce con una ricetta di orzo e ortiche. Il tepore primaverile ha risvegliato i campi e possiamo incominciare a raccogliere erbe. Pardon, dovrei dire fare foraging, come in modo trendy si dice oggi l'andar per bosche a raccogliere piante e frutti selvatici da mangiare. In italiano avevamo già però il termine fitoalimurgia, coniato dal medico Giovanni Targioni Tozzetti nel testo De Alimenti Urgentia del 1767, opera che trattava della possibilità di far fronte a carestie ricorrendo ad erbe selvatiche. Ultimamente queste erbe sono tornate di moda e grazie a chef stellati stiamo assistendo ad una riscoperta di cibi alimurgici. In questo ambito un ruolo considerevole è svolto dall'ortica, urtica dioica a fiorellini giallo-verdastro, anche se, nonostante il proverbio dica a chi non vuol far fatiche l'orto gli fa ortiche, è sempre più difficile da trovare, perché i boschi sono pieni della cosiddetta falsa ortica o lamium purpureum a fiore rosa. Il nome ortica deriva dal latino urere, bruciare, per il potere urticante delle foglie, e appunto in tedesco c'è l'espressione sich in die Nesseln setzen, ovvero sedersi sulle ortiche per dire mettersi nei guai. Raccogliamole con guanti e forbici, perché le ortiche vanno tagliate e mai strappate, e cogliamo solo i germogli apicali, perché le foglie sottostanti tendono ad essere coriacee. I greci, secondo Aristofane, ne erano ghiotti e le ritenevano migliori se colte prima dell'arrivo delle rondini. Le foglie cotte perdono il potere urticante e hanno un sapore delicato che si avvicina a quello degli spinaci. Sono l'ingrediente ideale per ripieni, paste fresche, risotti, frittate, frittelle, salse, vellutate, torte salate e perfino dolci. Uno scavo archeologico in Inghilterra, in un insediamento dell'età del bronzo, ha ritrovato una ciotola che le analisi hanno dimostrato contenere una zuppa di ortiche. La minestra di ortiche è tra le pietanze consumate da Konstantin Levin e Stefano Blomsky in Anna Karenina di Tolstoj, e anche nel recente romanzo cult 50 sfumature di grigio di James si cita una vellutata di ortiche con bisque di pesce. Io vi propongo la sope di guardi e urties di Gianni Cosetti. Rosolate in olio 50 g di pancetta affumicata, aggiungete un cucchiaio di farina e 400 g di germogli d'ortica già sbollentati con un pizzico di bicarbonato e tritati. Rosolate per 10 minuti e aggiungete 3 decilitri di brodo vegetale. A parte, cuocete 100 g di orzo in acqua salata per 20 minuti, scolatelo e unitelo alla zuppa. Servite con formaggio grattugiato. E con Amos D'Antoni l'andamento dei mercati agricoli. Mercato debole con prezzi in diminuzione venerdì scorso nelle contrattazioni cerealicole della Camera di Commercio di Pordenone Udine, dove il mais con umidità 14% è stato quotato tra 34,90 e 35,40 euro al quintale IVA esclusa, l'orzo peso specifico 62,65 tra 36 e 36,30, il frumento tra 37,50 e 37,80 e la soia tra 68,40 e 68,90. Rispetto ad un anno fa il mais è aumentato di 13,80 euro e la soia di 10,40 euro al quintale. Passando ai bovini del macello, si rileva ancora un lieve movimento delle quotazioni, con le vacche fine carriera di prima qualità, che vengono pagate a peso morto tra 3,10 e 3,60 euro al chilo IVA esclusa, quelle di seconda tra 2,50 e 3,10. Mercato stazionario invece nel settore dei vitelli da ristallo, con le quotazioni che accertano i Blubelga maschi quotati tra 6,10 e 6,60 euro il chilo IVA compresa, i pezzati rossi tra 4,40 e 4,80, i frisoni tra 1,60 e 1,90 e i bruni tra 1,50 e 1,70. Nel comparto suinicolo è proseguito il buon andamento delle contrattazioni e i lattondoli di 30 kg franco partenza vengono quotati a 3,23 euro il chilo IVA esclusa, mentre i grassi da macello si pagano a 1,62 il chilo. Scambi attivi anche nel settore dei prodotti caseari, con quotazioni in aumento. Il montaggio di 90 giorni viene pagato tra 6,80 e 7,10 euro il chilo IVA esclusa, quello di 4-6 mesi tra 7,80 e 8,10, con marchio di qualità tra 8,80 e 9,10, lo stagionato 12-15 mesi tra 8,20 e 8,60. Infine, nel settore degli aviconicoli si segnalano ancora scambi attivi con prezzi stabili. I polli a terra vengono pagati tra 1,83 e 1,85 euro il chilo IVA esclusa, le anatre tra 3,51 e 3,55, i tacchini maschi tra 2,28 e 2,30, le faraone tra 3,85 e 3,95, i conigli oltre 2,5 kg tra 2,36 e 2,42. Con il previsore dell'ARPA Sergio Nordio diamo un'occhiata al meteo per la settimana entrante più un breve contributo di climatologia locale. Questo primo scorcio di aprile si è presentato con temperature piuttosto fresche. Negli ultimi 7 giorni i valori delle temperature medie in pianura sono stati inferiori di circa 2 gradi rispetto alla norma degli ultimi 30 anni. Tale differenza è stata più evidente anche sulle temperature massime, inferiori di circa 3 gradi, piuttosto che nei valori minimi, più in linea con la norma. In Carnia, specie nel fondovalle, è stato ancora più fresco, con la media delle massime che a Enemonz è stata inferiore addirittura di 5 gradi rispetto alla norma. Da notare che il giorno 2 aprile non si sono superati i 3,9 gradi, un valore più basso è stato registrato solo una volta negli ultimi 30 anni, il 10 aprile del 2003, con 3,2. Ieri il passaggio di un fronte freddo ha provocato nuovamente un balzo all'ingiù delle temperature e anche nella prossima notte avremo il rischio di locali gelate in pianura, oltre che sulla zona montana. Da domani avremo una rimonta anticiclonica che favorirà tempo stabile, giornate soleggiate e le temperature inizieranno lentamente e gradualmente ad aumentare, riportandosi verso la media del periodo e nella seconda parte della settimana probabilmente tenderanno a superare leggermente i valori tipici di metà aprile, specie nelle massime in pianura, che raggiungeranno anche i 22-24 gradi. Il tempo rimarrà abbastanza stabile fino a giovedì, inizialmente con cielo sereno o poco nuvoloso, ma da martedì in poi sarà probabile la comparsa di velature in quota, anche consistenti, oltre che di locale nuvolosità e evoluzione diurna sulla zona montana, soprattutto sulla fascia prealpina. Verso la fine della settimana l'evoluzione è ancora incerta, potrebbe incrementare un po' l'instabilità provocata da un possibile moderato afflusso di correnti meridionali umide, con conseguenti anche rovesci, specie in pianura sulla zona montana, e alcune simulazioni del comportamento atmosferico sono propense per un possibile nuovo abbassamento delle temperature verso Pasqua. Al momento queste previsioni sono però ancora piuttosto incerte e si rende quindi più che mai necessario seguire costantemente gli aggiornamenti. Termina qui la puntata, ma vogliamo lasciarvi con un altro proverbio friulano dedicato al tempo e al calendario. Quan calciante il cuc, une di plo e une di sut, ovvero quando canta il cuculo, un giorno pioggia e un giorno asciutto. Coordinamento tecnico di Daniela Porto, il nostro indirizzo mail vitaneicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Armando Mucchino, Rita Micoli e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato? Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.